in primo piano. Buona giornata, buona domenica, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo che cosa occupa i giornali, quali argomenti occupano i giornali di oggi. Naturalmente il decreto cosiddetto salda debiti è tra le notizie più importanti, lo vedremo nei suoi approfondimenti, nei vari tagli anche che vengono proposti dai vari quotidiani. La Stampa titola: imprese partono i rimborsi, rinunciando così a uscire da quello che potremmo chiamare il balletto delle cifre, perché a seconda del fatto che si guardi il totale della messa a disposizione oppure invece quanto concretamente parte, le valutazioni sulla decisione presa ieri dal governo possono cambiare. Allora, imprese partono rimborsi è il titolo della Stampa, che si pone così in un territorio neutro. Approvato il decreto che sblocca il pagamento di 40 miliardi di debiti della pubblica amministrazione, viene ricordato più in piccolo sopra il titolo, ad aziende e banche. PD e PDL cresce il fronte del dialogo, e qui si fonde nello stesso titolo anche la questione politica. Berlusconi lancia 8 proposte, i grillini: subito le commissioni o martedì occupiamo il Parlamento. Questa la sortita che sarebbe una delle cose emerse appunto dalla riunione, dal raduno dei cittadini, così vogliono essere chiamati i grillini, che è avvenuto proprio venerdì scorso. E poi la Stampa si distingue da altri giornali perché ricorda la tensione tra le due Coree, che invece su altre testate trova spazi inferiori. Se uno non ha paura dell'apocalisse nucleare è il titolo che viene dato alla grande foto di prima pagina. Dopo la minaccia di Pyongyang, molti sudcoreani hanno iniziato a lasciare la Nord Corea. Nella foto si vede appunto un gruppo, una colonna di auto e pullman che si allontanano, escono quindi dalla Corea del Nord. C'è una ricostruzione appunto della Stampa su come si vive a Seul, cioè nella Corea del Sud, nel paese direttamente minacciato dalle sortite appunto della Corea del Nord. Vediamo come invece decide di titolare Repubblica: sia il decreto salda debiti, sbloccati 40 miliardi per le imprese, rinviato l'aumento della TARES. Su questo poi sarà necessario anche capirsi bene, lo faremo magari con qualche altra testata, perché è un rinvio per modo di dire, nel senso che pagheremo due rate con delle vecchie regole e poi a dicembre verremo chiamati a pagare con le nuove regole. Quindi in questo passaggio tra le vecchie tasse e le nuove tasse, alla fine comunque il conto dell'aumento in qualche modo all'interno del 2013 dovrà tornare, cioè i soldi, questo miliardo stimato di aumento tra le vecchie imposte sui rifiuti e le nuove imposte, alla fine appunto ci costerà sempre un miliardo in più nel corso di quest'anno, non più da luglio come si temeva, ma da dicembre, appunto secondo quanto è stato deciso dal governo. Due notizie che occupano la parte bassa della prima pagina di Repubblica. Una ricostruzione di Maria Novella De Luca per una vicenda davvero triste. Montalto di Castro: io stuprata e due volte senza giustizia, il branco è libero, sono stanca di lottare. La rabbia della ragazza che nel 2007 subì violenza di gruppo. E all'interno un lungo articolo di Maria Novella De Luca ricostruisce appunto questa vicenda da un certo punto di vista sconcertante anche per tutte le svolte giudiziarie che alla fine hanno portato esattamente a questo risultato, cioè che la ragazza che è stata stuprata non ha ancora ottenuto una forma di giustizia. La ricostruzione non è semplicissima da fornire in pochi minuti, ma l'articolo ricostruisce bene appunto come questo sia successo. E poi invece una notizia per certi versi sorprendente: spesso diciamo che con l'avvento dei computer, dei social network, le giovani generazioni abbiano perso il gusto per la lettura. Bene, Irene Maria Scalise sulla prima pagina di Repubblica ci segnala: i bambini nell'era di Facebook leggono di più di mamma e papà. 58% dei giovani tra i 6 e i 17 anni sfoglia libri, per gli adulti se c'è solo il 46%. Quindi la diffusione dei social network che favorisce in qualche modo anche l'avvicinarsi alla lettura. Naturalmente c'è la politica nella prima pagina di Repubblica: larghe intese, il Partito Democratico è diviso, piano di Berlusconi in 8 punti, Bersani che dice: non cedo ai ricatti C'è stata, come sapete, questa sostanziale apertura da parte di Franceschini al dialogo con Berlusconi, con il PDL, ma appunto le tensioni all'interno del PD restano abbastanza evidenti. Renzi ha detto: nessuno vuole il voto, questo ricorda Repubblica. Il Fatto Quotidiano sceglie di dare il suo titolo principale invece ai funerali di Civitanova. Avete sentito poco fa, nel corso del DGR24, la collega Maria Luisa Pezzali che se segnalava appunto queste contestazioni che sono avvenute ieri, la gente furibonda per la vicenda dei due pensionati appunto che si sono tolti la vita, il che poi ha causato anche l'analogo gesto da parte di un altro fratello, e il Fatto Quotidiano decide proprio di aprire la sua prima pagina con questa vicenda di Civitanova Marche. La folla grida omicidio di Stato, fischi di rabbia contro la Presidente della Camera Laura Boldrini, unico politico presente nelle Marche ai funerali della famiglia suicida perché strozzata dalla crisi. Il leader di Confindustria Squinzi: situazione gravissima, 62 imprenditori uccisi dalla recessione. Il decreto salda debiti, commentato sarcasticamente alla prima pagina del Fatto, debiti, farsi pagare è un impresa. Ha approvato il decreto, 40 miliardi di euro in 2 anni, ma solo una piccola parte arriverà subito, per il resto bisognerà aspettare la finanziaria d'autunno. E poi appunto questa è una ricostruzione, diciamo, di quelle in minore. Allora, tra l'una e l'altra oscillazione, vediamo ancora il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera dice: imprese, rimborsi e critiche, decreto da 40 miliardi, le associazioni dicono non basta, lo Stato avvia i pagamenti degli arretrati, slitta la Tares, ingorgo fiscale a dicembre. E poi Berlusconi, 8 punti per governare l'Italia, nuovi segnali dal Partito Democratico. Anche sul Corriere della Sera in prima pagina Fabrizio Caccia ricorda le contestazioni alla Boldrini, alla Presidente della Camera Laura Boldrini, appunto avvenute ieri durante le esequie per i suicidi di Civitanova Marche. Allora, questi soldi, insomma, quanti sono veramente gli importi che vengono sbloccati per uscire da questa impasse della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese? Il Sole 24 Ore dà una ricostruzione più accurata, se ci perdonate, ovviamente siamo di parte nel segnalare il Sole 24 Ore, ma è vero che anche quanto numero di pagine e approfondimenti è il giornale più completo sul tema. Pagamenti, si parte con 2 miliardi e 300 milioni, questo è il titolo del Sole 24 Ore. È giallo sul tetto alle compensazioni, salta l'aumento appunto del tetto alle compensazioni, poi ripristinato in extremis, via libera al decreto da 40 miliardi, complessivamente appunto l'intervento andrà a muovere 40 miliardi, di cui però si parte con 2 miliardi e 300 milioni. Squinzi ha detto testo migliorato, Presidente di Confindustria, ma da approfondire nella versione definitiva. E poi in prima pagina Sole 24 Ore spiega che entro il 9 aprile, cioè a dire che tra domani e dopodomani, c'è un intervento immediato. Il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che è attesa per domani, per lunedì, del decreto legge sui pagamenti, gli enti locali possono versare subito una quota dei debiti verso le imprese, e sono appunto i 2 miliardi e 300 milioni possibili immediatamente. Poi entro il 30 di aprile c'è una richiesta di fondi al Tesoro, i comuni, le province e le aziende sanitarie locali chiedono l'accesso al fondo, consegnano un elenco del debito al Ministero dell'Economia che autorizza i pagamenti e indica le risorse di lì a 15 giorni, cioè entro il 15 maggio. In questo modo si andrebbero a sbloccare 26 miliardi. E poi entro il 15 di settembre del 2013 c'è un termine ultimo per completare il censimento, perché l'entità reale complessiva di questi debiti non è perfettamente nota, quindi i debiti delle amministrazioni pubbliche scaduti al 31 dicembre 2012 dovranno essere censiti entro il prossimo 15 settembre per accedere così alle successive tranche di pagamento. In questo modo, quindi, con questo andamento per tappe, si arriva alla totale mobilitazione dei 40 miliardi. E questo, la ricostruzione che viene fatta dal Sole 24 Ore già in prima pagina, che però in prima pagina segnala anche invece una cattiva notizia: mutui, scaduta la moratoria sulle rate. Maximilian Cellino avvisa che il 31 marzo sono state sospese le agevolazioni per le famiglie in difficoltà. Il nuovo fondo di solidarietà, che doveva partire il 1 di aprile, è fermo per lentezze burocratiche. Quindi questo cosa comporta? Che le famiglie italiane in difficoltà a pagare le rate del mutuo sulla prima casa rischiano, come avverte Cellino sulla prima pagina del Sole 24 Ore, di non trovare un salvagente a cui aggrapparsi in questo primo scorcio di aprile. A fine marzo ha chiuso ufficialmente i battenti, dopo 3 anni di attività, il piano famiglie, che garantiva la sospensione dei pagamenti, e il suo sostituto resta ancora ai box. Niente permette al momento lo stop temporaneo delle rate. Noi uno stop temporaneo invece lo facciamo subito, ascoltiamo le previsioni meteorologiche. In primo piano. Bentornati alla nostra rassegna stampa. Stavamo cercando di mettere un po' d'ordine in queste cifre del decreto cosiddetto salda debiti, varato ieri dal governo. Perché mettere un po' d'ordine? Perché a seconda che si guardi al valore complessivo di tutta l'operazione oppure ai suoi tempi reali di erogazione, le valutazioni e anche le cifre stesse possono cambiare. Allora, stavamo appunto esaminando con il Sole 24 Ore alcuni dettagli del provvedimento. Vi segnalo, tra i vari servizi che potete trovare sul quotidiano di Viale Monterosa di oggi, il lavoro che viene presentato in pagina 5 a firma di Gianni Trovati sui primi pagamenti, perché in questo sblocco c'è l'utilizzo di parte della liquidità disponibile da parte dei comuni. E allora Gianni Trovati, con il corredo di una tabella, segnala che in testa a questi primi pagamenti possibili c'è Milano appunto, che ha la possibilità di effettuare pagamenti immediati per 112 milioni di euro. Queste sono le stime, spiega l'articolo. Solo Milano supera i 100 milioni di euro nei pagamenti resi disponibili immediatamente dal decreto approvato ieri in Consiglio dei Ministri, grazie a una liquidità disponibile che è tripla rispetto a quella di Roma. In rapporto alle dimensioni dell'ente e dei suoi debiti, sono invece i creditori di comuni come Bergamo, Sondrio e Barletta ad avere le chance migliori di ricevere subito una quota di pagamenti. In una trentina abbondante di capoluoghi invece non ci sono molte possibilità prima della metà di maggio, perché sui conti del comune non c'è un euro. Quella tabella complessiva dei capoluoghi è poi riportata a pagina 5 del Sole 24 Ore. Vi segnalo appunto, in testa c'è Milano, poi viene Roma, ma decisamente più distante, con 48 milioni di euro. A chiudere la classifica per mancanza di liquidità disponibile c'è Torino, Siracusa, Salerno, sono Torino, Salerno, Siracusa, Rieti, Reggio Calabria e diversi altri comuni ancora. Il problema appunto è che non c'è una disponibilità immediata per attivare dei pagamenti. E veniamo all'altra grande vicenda di questi giorni, cioè la TARES. TARES, ormai l'abbiamo imparato, è il nome della nuova tassa per rifiuti e servizi. Questa nuova tassa, appunto, non comprendendo più solo il servizio di raccolta rifiuti ma anche altri cosiddetti servizi indivisibili dei comuni, ci costerà più cara delle tasse precedenti, che sono appunto la TARSU e la TIA. Ci sono diversi problemi nel passaggio dalle vecchie tasse alla nuova tassa. Per riuscire a sbloccare la vicenda, il decreto ha deciso che ci saranno due pagamenti con le vecchie regole e poi a dicembre un pagamento differenziato sulla TARES. Poi anche sull'IMU c'è stata una decisione importante: entro il 9 di maggio i comuni dovranno decidere le aliquote IMU per il 2013. L'IMU, sapete, è l'imposta municipale sugli immobili, che è imposta di cui si è parlato molto in campagna elettorale. Se i comuni vogliono applicare da subito nuove aliquote sull'IMU, dovranno dirlo entro il 9 di maggio. Anche questo poi la ricostruzione sul Sole 24 Ore di oggi. E infine, ultima citazione per il nostro quotidiano, la vicenda che vi segnalavo dalla prima pagina a firma di Maximilian Cellino: mutui, famiglie italiane senza rete. Il 31 marzo è scaduta la moratoria, ma non è attivo ancora il fondo di solidarietà che consente di sospendere le rate alle famiglie in difficoltà. difficoltà. Tra l'altro sono finora 90.000 i nuclei che hanno potuto beneficiare delle agevolazioni, e il nuovo strumento, che appunto attende lo sblocco, uno sblocco più che altro burocratico, riferisce Cellino, è uno strumento che sarà vincolante per tutte le banche. Queste alcune delle segnalazioni su articoli che trovate sul Sole 24 Ore, tra cui anche una notizia che non ha avuto molta popolarità in altri giornali: la Corte Costituzionale portoghese ha bocciato il piano di austerity deciso dal governo, quindi buco in bilancio a Lisbona. È un altro dei, come dire, passaggi difficili di questa austerità imposta dalla crisi, imposta dai piani di rientro comunitari, che però poi appunto si scontrano vuoi con le inevitabili proteste dal punto di vista popolare e vuoi anche con i vizi giuridici che finiscono per emergere, come nel caso di Lisbona. Il resoconto sul Sole 24 Ore è affidato a Luca Veronese. Vediamo come altri giornali hanno dato più o meno spazio alla vicenda del decreto salda debiti, ovvero alla politica. Sul Giornale si decide di aprire con le 8 proposte di Berlusconi. Ecco il piano di Berlusconi e PDL: riforma dell'IMU, di Equitalia, dei partiti, centrodestra pronto alle larghe intese, Franceschini e Bindi isolano Bersani, che apre a un governo con il Cavaliere. E questa è la titolazione appunto scelta dal Giornale. Invece lettura anche qui polemica per la vicenda dei fischi alla Presidente della Camera ieri ai funerali delle vittime di Civitanova Marche, strage di Stato fischiata alla Boldrini. Il titolo è: la sinistra chic scopre che l'Italia è a terra. E solo sotto questo titolo, in quello che in gergo appunto si chiama un sommario, si legge: Monti dà un po' di soldi alle imprese ma sbaglia i conti. Questo il lapidario giudizio dalla prima pagina del il Giornale di oggi. L'Unità, cambiamo quindi decisamente orientamento editoriale, l'Unità dice: il CAV in campagna elettorale, Berlusconi rilancia sul presidenzialismo e la giustizia punta sulle divisioni a sinistra. Il dialogo con il PDL alza la tensione del PD, avverte l'Unità già dalla prima pagina, e al centro pagina si legge: sì ai crediti, ma le imprese non brindano. Il governo sblocca i pagamenti, 40 miliardi entro 12 mesi, i dubbi delle aziende temono che il decreto non produca gli effetti necessari. In prima pagina sull'Unità e anche su altri giornali la vicenda dei giornalisti rapiti in Siria, l'Avvenire dedica a questa vicenda la sua terza pagina, quindi in qualche modo la pagina principale dei suoi approfondimenti. Siria in ansia per i giornalisti, scrive l'Unità, i 4 italiani fermati sarebbero in buone condizioni, presto il rilascio, si domanda la prima pagina dell'Unità. Di tutt'altra natura l'apertura del Manifesto, che sceglie questo titolo: gli ultimi della classe, e fa riferimento ai dati che sono stati diffusi ieri dal Censis. Italia fanalino di coda in Europa per la spesa destinata alla cultura e all'istruzione. Triste primato conteso con la Grecia, dicono i dati Eurostat per il 2011. E i giovani scappano, in un anno l'immigrazione è salita al 30%. Questo invece lo avete ascoltato, forse lo avete ascoltato ieri nel corso di Giovani Talenti, che ha presentato qui su Radio 24 in anteprima questi dati appunto sull'emigrazione, specialmente delle fasce più giovani, delle fasce più giovani dei nostri connazionali, che decidono di andarsene all'estero per mancanza di prospettive evidentemente soddisfacenti nel nostro paese, un fenomeno che purtroppo risulta costantemente in crescita negli ultimi anni. Cambiamo in linea editoriale con Libero, che parla di un piano B per il governo, svolta in arrivo, Bersani abbandonato anche dai fedelissimi, Franceschini apre all'intesa con il PDL e Berlusconi rilancia con gli 8 disegni di legge che possono far ripartire l'Italia, ora o dopo un altro voto. Poi Grillo, che ieri ha, come dire, lanciato un'altra delle sue frasi ad effetto, riesumando, così scrive Libero, Monte dei Paschi di Siena, la vicenda del Monte dei Paschi di Siena, morte sospetta, si fa riferimento appunto al suicidio del responsabile della comunicazione di Monte Paschi Boschi di Siena. Morte sospetta, ha detto Grillo, ce ne saranno altre, così il l'ex comico, ora animatore del Movimento 5 Stelle. Sempre sulla prima pagina di Libero, l'addio ai suicidi per crisi diventa processo allo Stato, rabbia ai funerali fischiata alla Boldrini. E poi un giudizio molto tranchant sul decreto salda debiti, rimborsi dimezzati, tagli ai fornitori, beffa di Monti alle imprese, una su due salterà in aria, così il titolo dell'articolo di Franco Bechis in prima pagina su Libero. Visto che siamo, come dire, in qualche modo in tema politico, vi ricordo oggi Pontida, un appuntamento sempre importante per capire come va, come sono gli umori della Lega Nord, e la Padania infatti titola Pontida, nuova energia per le nostre battaglie, il virgolettato da attribuire a Maroni che spiega infatti: si torna a Pontida, il luogo che ci riporta alle origini della nostra storia, parleremo di macro regione e degli impegni futuri della Lega, così appunto la Padania che sceglie di dare spazio a questo appuntamento politico interno. In prima pagina della Padania si ricorda poi che è il decreto che sblocca i pagamenti della PA, ma il Nord resta a secco. Veneto, Monti sequestra 1 miliardo e 300 milioni, avverte Nicola Leoni sulla prima pagina della Padania. Noi ora ci fermiamo un istante, ascoltiamo le informazioni sulla viabilità. La rassegna stampa torna tra pochissimo. In primo piano. Bentornati all'ultima parte della nostra rassegna stampa. Come avete potuto ascoltare, i giornali sono abbastanza vari nello scegliere di dare o non dare spazio ai provvedimenti varati ieri dal governo, quindi con questo primo atto di sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione, da parte della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese che attendono, pare, una novantina di miliardi complessivamente di crediti. Ci sono appunto in ballo per questo prima tranche 40 miliardi, con però solo alcuni sono a sblocco immediato, a pagamento diciamo immediato in pochi giorni, gli altri derivano da una serie articolata di eventi che viene raccontata con maggiore o minore dettaglio dai vari quotidiani. Il Messaggero sceglie di dare a questo avvenimento il suo titolo principale, imprese via libera 40 miliardi, appunto sceglie di sottolineare il totale dell'operazione, varato il decreto che sblocca i pagamenti della PA, della pubblica amministrazione, l'importo erogato nei prossimi 12 mesi. I costruttori dicono strada giusta ma niente preferenze, domani i primi versamenti alle aziende, domani è atteso, lo abbiamo letto su qualche altro giornale, è atteso appunto, attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, da lì parte il primo step, il primo passaggio dell'operazione che poi porterà fino all'autunno prossimo con il completamento di un vero e proprio censimento dei debiti per capire quanti sono i soldi dovuti. I comuni hanno uno sblocco di liquidità che consente a coloro che hanno in cassa appunto del denaro di pagare le imprese o almeno una parte dei debiti nei confronti delle imprese. Ancora sul Messaggero, foto, la foto notizia di prima pagina, la grande foto di prima pagina dedicata alla contestazione alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, durante i funerali a Civitanova Marche, il triplo suicidio, Boldrini contestata ai funerali, ma lei che ha detto un dovere metterci la faccia. La folla che gridava meglio se non veniva, avete ascoltato in occasione del nostro giornale radio delle ore 7 le grida, appunto le contestazioni della folla. Dalle pagine interne del Messaggero traggo ancora una segnalazione, perché oggi a Roma c'è la chiusura della campagna elettorale delle primarie. I Democrat, scrive il Messaggero a pagina 8, scelgono il candidato, incognita, affluenza, questa volta tocca anche a sedicenni e stranieri. Ci sono sei candidati appunto che per queste primarie di Roma, da qui dovrà uscire il candidato che il 26 e 27 maggio dovrà tentare la riconquista del Campidoglio, così scrive Fabio Rossi, che fu espugnato 5 anni fa dal centrodestra con la vittoria di Gianni Alemanno. Questo, poi i candidati che sono ricordati nelle pagine interne: Gemma Azzuni, Mattia Di Tommaso, Paolo Gentiloni, Ignazio Marino, Patrizia Prestipino e David Sassoli. Sempre dalle pagine interne del Messaggero, l'accostamento tra la poca spesa dell'Italia per cultura e istruzione. Figuriamo in coda alle classifiche: per la cultura siamo proprio gli ultimi per percentuale di spesa pubblica destinata a cultura nel 2011, per l'istruzione siamo i penultimi, perché peggio di noi risulta la Grecia, però paese, come sappiamo, in gravissime difficoltà economiche. Il Censis che poi ha detto: ci sono degli sprechi al sud, è uno degli spread tra noi e la Germania, è il commento di Leonardo Becchetti, docente di economia politica a Tor Vergata, che viene intervistato su questa vicenda. Qualche giornale avverte che questi dati vanno comunque depurati dal peso degli interessi del debito pubblico, che ci impediscono in qualche modo una correlazione, un confronto corretto rispetto ad altri paesi. E poi la notizia dei cervelli in fuga, via dall'Italia caccia di lavoro, un boom di emigranti nel 2012, sono soprattutto maschi tra 20 e 40 anni in cerca di impiego. Questo ricorda Walter Rahue sul Messaggero. La notizia naturalmente è ripresa anche da tutti gli altri giornali. Ci sono poi delle notizie invece meno evidenti su altri giornali, due di queste le ho trovate sulla Stampa e ve le segnalo. Innanzitutto un film dedicato al movimento di Beppe Grillo. Jacopo Iacoboni racconta appunto questo film documentario che sarà nelle sale soltanto un giorno, il 10 aprile, per il resto poi sarà diffuso come DVD, sarà venduto come DVD, questo film sullo Tsunami Tour, appunto il tour che Beppe Grillo ha tenuto prima durante la campagna elettorale e che gli ha portato un risultato, come poi abbiamo visto, impressionante. In anteprima il film sullo tsunami, ecco perché non vado in TV. Grillo Verità è il titolo che viene dato a questo articolo. La TV ormai fa perdere. La tesi è appunto in una confidenza che viene raccolta da questi due filmmaker, giovani filmmaker che hanno seguito lo Tsunami Tour, è appunto questa: è inutile andare in TV perché la TV non ha quella efficacia tale da poter condizionare il voto, e questa appunto la decisione. Poi invece il raduno di venerdì, nella pagina interna che la Stampa dedica al Movimento 5 Stelle, ci sono le dichiarazioni di Giulia Sarti, che è una deputata emiliana del Movimento 5 Stelle, era stata indicata come dissidente, spiega in questa intervista ad Andrea Malaguti che non è assolutamente una dissidente, anzi che è assolutamente consona con quanto sostenuto, quanto detto dal leader del movimento Beppe Grillo. Una della Stampa, vi avevo anticipato in prima pagina la grande fotonotizia dedicata alla situazione tra le due Coree, la Corea del Nord che come sappiamo ha sostanzialmente dichiarato una guerra nucleare, un possibile attacco nucleare nei confronti degli Stati Uniti, questo con notevoli preoccupazioni, ma soprattutto preoccupazioni a Seul, cioè nella Corea del Sud. Seul tra fratalismo e paura è il titolo che viene dato al lungo reportage di Ilaria Maria Sala, proprio da Seul. Seul tra fratalismo e paura, si chiede fin dove arriverà Kim. I razzi del regime di Pyongyang puntati sulla capitale e la risposta della popolazione che dice: siamo abituati alle minacce. All'interno anche foto e dichiarazioni appunto, con un'analisi di Gianni Riotta che accompagna questo reportage di Ilaria Maria Sala. Scrive: l'atomica è un bluff, le truppe al confine sono il vero rischio, è l'avvertimento che lancia questa analisi appunto sulla Stampa. E poi una piccola notizia per chiudere: maiale nelle lasagne di Alce, IKEA ritira il piatto dal menù. Un altro piatto, come dire, adulterato, questo è accaduto a Stoccolma, ce lo segnala la Stampa in un piccolo articolo nelle pagine interne. carne. E con questo è davvero tutto. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, grazie a voi dell'ascolto e una buona domenica.